giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Tentato femminicidio. Con ogni probabilità sarà questa l'accusa nei confronti di un uomo che ieri sera a Trieste ha accoltellato la donna con cui aveva una relazione. La vittima, una 45enne bosniaca, non è in pericolo di vita ma ha riportato diverse lesioni. L'aggressore, un cittadino kosovaro di 39 anni, è in stato di fermo al Coroneo. E proprio ieri, 8 marzo, giornata internazionale della donna, era stato firmato a Gorizia, in questura, un protocollo volto a prevenire violenze fisiche e psicologiche sulle donne. Riciclaggio e traffici transfrontalieri di droga e combustibili sono i terreni su cui forze dell'ordine e magistratura devono tenere alta l'attenzione in Friuli Venezia Giulia. A dirlo è il direttore della DIA, Maurizio Vallone, oggi a Udine per un convegno sulle nuove tecnologie per contrastare la mafia. Realtà virtuale, la nuova frontiera della progettazione navale, come mostrare fin nei dettagli ad un potenziale cliente una nave da crociera che nella realtà ancora non esiste, creandola al computer. E quanto ha cominciato a fare durante la pandemia Fincantieri, scoprendo un terreno nuovo che ormai è una normale modalità di lavoro. Andra e Tatiana Bucci, due sorelle triestine che da bambine erano state deportate ad Auschwitz, di nuovo a Trieste in occasione dell'8 marzo per la mostra di un collettivo femminista newyorkese di cui sono madrine. E poi racconteremo la storia di alcune donne che a Pordenone hanno fondato un'azienda agricola recuperando la tradizione dei metodi di produzione del formaggio ma portandola verso il futuro. Il ritorno della guerra fredda in Europa, se ne occupano due convegni, uno organizzato dall'Università di Udine e l'altro dall'Università di Trieste. Il primo da avvio al forum Terra di Confine, dalla guerra fredda ai conflitti del nostro tempo, e vede fra i protagonisti Mark Kramer, direttore del Centro Studi sulla Guerra Fredda di Harvard. Il secondo a Trieste, nell'ambito del ciclo Come si uccide la pace, le grandi crisi internazionali della contemporaneità, vedrà protagonisti lo storico Raul Pupo e il professor Andrea Graziosi dell'Università Federico II di Napoli, autore del volume L'Ucraina e Putin tra storia e ideologia. Sconcerto a Udine per i troppi giorni di chiusura delle scuole. Non solo Pasqua e il ponte del 25 aprile, ma anche le elezioni, il possibile ballottaggio e poi la dunata degli alpini. Un comitato propone, almeno per le votazioni, soluzioni alternative alle aule scolastiche. È giovedì 9 marzo 2023, sono le 7:20 minuti e 40 secondi. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale. Ai microfoni con voi stamattina Daniele Lettige e Antonio Cagliazza. Vediamo subito com'è il tempo. Il cielo è coperto su tutta la regione ed ecco le temperature. A Trieste 11,5 gradi, a Gorizia e a Udine 10, a Pordenone 9, Tarvisio 7,5, Tolmezzo 5,5, Forni di Sopra 4, Sappada 2 gradi, Piancavallo 1,5 gradi, sul Monte Lussari e sullo Zoncolan 0, a Grado e a Lignano 10,5. Queste invece le previsioni. Per oggi, al mattino, cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse intermittenti in genere deboli, più probabili sulla fascia orientale. Quota neve a 1400-1600 metri circa. In giornata, probabile tempo migliore in quota e sulle zone occidentali, dove ci saranno maggiori schiarite, mentre a est la nuvolosità sarà più consistente. In pianura saranno possibili foschie, specie nelle ore notturne, fino al pomeriggio sui monti in quota soffierà vento da sud-ovest moderato. L'8 marzo, la giornata internazionale delle donne, ieri è finito con una donna accoltellata, un probabile tentativo di femminicidio. Come si diceva nei titoli, è accaduto a Trieste poco prima delle 22. La vittima è una donna bosniaca di 45 anni, raggiunta da diversi fendenti che per fortuna non hanno raggiunto organi vitali. Non è dunque in pericolo di vita. Al momento la sua prognosi è riservata. L'aggressore, un cittadino kosovaro di 39 anni, si è costituito nella notte in questura. Si tratta dell'uomo con cui aveva una relazione. Al momento è in stato di fermo nel carcere del Coroneo. Il fatto è accaduto in Via del Veltro, nella zona di Montebello, dove la vittima abita. Stava tornando a casa quando sarebbe stata improvvisamente raggiunta dall'uomo, che l'ha assalita con un coltello in mano e l'ha colpita ripetutamente, almeno 4 volte, per poi scappare. Il fatto è avvenuto dinanzi ad alcuni testimoni che hanno dato l'allarme, facendo arrivare sul posto un'ambulanza e diverse pattuglie della polizia. Benché ferita e spaventata, la donna è sempre rimasta cosciente, è stata trasportata all'ospedale di Cattinara, dove è ricoverata. e dunque la violenza sulle donne è stato uno dei temi toccati ieri in diversi eventi organizzati per l'8 marzo. Uno di questi era appunto volto a prevenire casi gravissimi. È evidente che quanto fatto finora sul piano giuridico e quello sociale e subculturale non basta ancora. A Gorizia è stato firmato un protocollo che prevede l'intervento di forze dell'ordine e psicologi per prevenire le aggressioni. Uno schiaffo durante una lite, parole vessatorie, maltrattamenti psicologici. Per intervenire prima che la violenza di genere assuma contorni più gravi, esiste il protocollo Zeus, firmato anche a Gorizia, dove questo tipo di reati ha avuto un calo di denunce nel 2022. Uno strumento di prevenzione, un ammonimento del questore ad interrompere qualsiasi comportamento sbagliato. Paolo Groppuzzo, questore di Gorizia. Ma il questore con questo avvenimento può individuare il soggetto come ammonito poiché deve cambiare comportamento e offrirgli un aiuto che è forse l'aspetto di cui si parla poco ma che è il più importante per tutti noi, cioè quello culturale. La vera verità è che abbiamo a monte una formazione psicologica e culturale che forse deriva da un retaggio un po' obsoleto e forse aggressivo. Con il protocollo si procede d'ufficio ed è previsto anche un invito ad un percorso di recupero che permette un monitoraggio della situazione. In questo caso le associazioni Interpares di Trieste e l'Istrice di Pordenone mettono a disposizione psicologi e psicoterapeuti. Quasi sempre la difficoltà iniziale è quella della negazione da parte del soggetto. David Daris, associazione Interpares. Cerchiamo di lavorare per aiutare l'uomo ad ammettere un comportamento disfunzionale all'interno delle relazioni sentimentali che avviene spesso all'interno delle mura domestiche. Pasquale Fiorente, associazione L'Istrice. Non solo un problema in relazione, ma un problema con se stesso nel gestire delle emozioni che ci possono portare poi a decidere di agire un comportamento violento. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Non esistono più territori immuni dal rischio mafia, non esistono più le isole felici. Anche in Friuli Venezia Giulia occorre tenere gli occhi aperti sull'impiego delle massicce risorse in arrivo col PNRR. Lo sostiene Maurizio Vallone, direttore della DIA, la Direzione Investigativa Antimafia, l'organismo nato poco più di 30 anni fa dopo lo shock causato dalla strage di Capaci in cui morì il giudice Falcone. Stamattina Vallone partecipa all'Università di Udine al convegno Tecnologia emergenti per il contrasto alla criminalità organizzata, organizzato nell'ambito del Master in Intelligence e ICT dell'Ateneo Friulano. Gli abbiamo chiesto quali sono le nuove frontiere della lotta alla mafia. Le nuove frontiere della lotta alle mafie in questo momento sono assolutamente due. Una è quella dell'antiriciclaggio, attraverso le nuove tecnologie che si articolano con monete elettroniche e altri strumenti utili al riciclaggio, e l'altro è comunicazione delle organizzazioni criminali che avvengono attraverso oggi banche dati criptate che impediscono le intercettazioni. Qual è invece la situazione dell'infiltrazione mafiosa in Friuli Venezia Giulia? Quali sono le aree più a rischio? Ma per fortuna il Friuli Venezia Giulia è un territorio ancora sano dove non possiamo parlare di infiltrazioni. Possiamo parlare di affari che vengono svolti qui, sia nell'ambito del riciclaggio, sia soprattutto nell'ambito dei traffici transfrontalieri, traffici di droga e traffici di oli minerali che in questo momento tra l'Est Europa e l'Italia avvengono attraverso i valichi del Friuli Venezia Giulia. E che quindi appunto riguardano i valichi e anche i porti? Certamente, i valichi e tutti gli accessi. Il porto di Trieste è un importantissimo porto commerciale e come tale è esposto, come dimostrano anche recenti sequestri, ai traffici internazionali di stupefacenti. È sufficiente invece quello che si è fatto finora per tutelare i fondi del PNRR dalle possibili infiltrazioni mafiose o secondo lei bisogna fare di più? Si può sempre fare di più e si deve sempre fare di più. Una lotta alla criminalità organizzata è una lotta che avviene giorno per giorno e si adegua alle nuove sfide. Sul PNRR viene fatta un'attività preventiva dalle prefetture con i gruppi interforze antimafia all'interno delle prefetture, un'attività straordinaria che mira proprio ad impedire che la criminalità organizzata attraverso sue aziende possa appropriarsi dei fondi del PNRR. Economia e imprese. La pandemia aveva costretto anche le aziende a lavorare a distanza e a interfacciarsi con fornitori e clienti in maniera virtuale. Finita la stagione dei lockdown, è rimasto lo sviluppo di una modalità di progettazione che ha aperto nuovi traguardi e sono quelli che sta esplorando Fincantieri. Agli occhi un visore di ultimissima generazione che permette all'ingegnere informatico di vedere la nave prima ancora che sia costruita e al tecnico in cantiere di visualizzare gli elementi da montare prima ancora di toccare con mano il materiale. La digitalizzazione dei processi è trasversale in Fincantieri, coinvolge gli informatici a Trieste come gli operai sulle navi. Da una sala riunioni di Palazzo Marineria possiamo di fatto assaporare l'esperienza di visitare una cabina di una nave da crociera in ogni singolo dettaglio. Ci sembra quasi di percepire l'aria di mare. Michele Tornielli, responsabile innovazione digitale Fincantieri. È diventato essenziale con la pandemia, quando non potevamo far viaggiare gli armatori, quindi per condividere le informazioni usavamo questi file virtuali e adesso è diventato parte del nostro processo atto costante durante la produzione della nave. Perché serve? Serve perché ci permette di valutare in anticipo quale sarà il risultato finale, valutarne la qualità e creare efficienza dunque la produzione della nave stessa. L'azienda cantieristica raffina le competenze per diventare anche luogo di produzione di software di realtà virtuale. Negli ultimi 3 anni Fincantieri ha messo su una squadra che realizza queste applicazioni per visori, applicazioni brevettate e uniche, una squadra che tuttora è alla caccia di nuovi professionisti, assunzioni aperte. Siamo circa un team di 140 persone, composti da ingegneri, sviluppatori e tante altre professionalità che permettono di sviluppare la virtual reality, sistemi di artificial intelligence o robotica, che quindi vanno a digitalizzare tutte le attività, dall'ingegneria fino alla produzione e all'allestitore finale. Digitalizzazione e sostenibilità, questi due dei pilastri del piano industriale del nuovo amministratore delegato, Pier Roberto Folgero, ripetono più volte i vertici dell'azienda, orgogliosi di mostrare le novità in ambito green, a partire dai nuovi motori dual fuel con LNG, gas naturale liquefatto, installati nella più grande nave al mondo mai costruita, appena varata, a Monfalcone. Luigi Matarazzo, direttore generale Navi Mercantili. Ci sono delle nuove normative internazionali che hanno posto dei paletti nei prossimi anni. Un primo paletto l'abbiamo nel 2030, poi 2035 e 2050, dove dovremo arrivare a emissioni zero. Trieste, a Navi Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia. Torniamo ai temi dell'8 marzo, la giornata internazionale della donna celebrata ieri. Fra i numerosi appuntamenti, a Trieste l'inaugurazione della mostra di un collettivo femminista statunitense. Per l'occasione sono tornate le sorelle Andra e Tatiana Bucci, che da bambine furono deportate ad Auschwitz. Le abbiamo incontrate. Non cedere mai di andare avanti e di continuare a lottare, di non farsi sopraffare, ma lo fanno già tante donne. Questo è il messaggio che le sorelle Bucci vogliono lasciare alle giovani donne. Avevano 4 e 6 anni, Andra e Tatiana, quando un treno le portò da Trieste ad Auschwitz insieme alla loro mamma e al cuginetto Sergio. Lui non sopravvisse. Liberate dopo 11 mesi, ci misero un anno per ritornare nella loro città, Fiume. Le accompagnò Anna Freud, la figlia del celebre psicanalista. Poi un altro grave trauma, l'esodo forzato lontano dalla loro terra per mano del regime comunista. Andra Bucci. Per noi in particolare bisogna pensare che noi come donne evidentemente siamo diventate donne, perché siamo entrate in campo che eravamo veramente piccole e forse abbiamo avuto la forza che hanno fin da piccole, probabilmente la forza che hanno in più le donne per andare avanti. Tati Bucci. Sono sempre stata, anzi, molto orgogliosa di essere donna. Ecco, e sono anche contenta che Gianni Peteani abbia pensato di farci venire qui proprio il giorno delle donne, e la cosa molto importante che mi lega a lui e anche la storia della sua mamma. Gianni Peteani. Mia madre, Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d'Italia, deportata ad Auschwitz e a Ravensbrück. Un ricordo molto semplice, però forse il bagaglio e forse l'eredità specifico è quello di sapersi opporre alle ingiustizie, saper dire di no anche laddove una strutturazione porta necessariamente ad appoggiare, a dire sì. Le sorelle Bucci sono le madrine della mostra di un collettivo femminista newyorkese degli anni Ottanta a cui si ispira anche Banksy, le Guerrilla Girls, visitabile alla stazione Rogers fino al 18 marzo. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Un volume raccoglie le testimonianze dei primi 20 anni di Stella Polare, progetto di accoglienza per donne migranti vittime di tratta attivo a Trieste. Si intitola Stella Polare, 20 anni di rotta e di rete antitratta e sarà presentato alle 17.30 nell'Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Ateneo Triestino in via Monfort. Una storia tutta al femminile è quella che ci arriva da Pordenone, un'impresa fondata e portata avanti da donne. Il settore è quello dell'agricoltura. Hanno preso il testimone quando tutto si faceva a mano con metodi antichissimi e stanno conducendo la loro azienda nel futuro. Sentiamo. Io ho 20 anni quest'anno festeggiato che svolgo questo lavoro di trasformazione, ma non solo. Io non mi definisco neanche una casara, ma una malgara, perché quello un po'... l'inizio della mia storia. La storia di Annalisa Celante, del suo caseificio a Polcenigo, tutto al femminile, eccellenza del territorio, è una delle storie di imprese rosa di successo raccontate nell'evento organizzato da Coldiretti Donna Impresa Pordenone nello stand di Campagna Amica all'interno della manifestazione Ortogiardino in occasione dell'8 marzo. Siamo io e mia sorella, adesso si è aggiunta un'altra ragazza, una collaboratrice, Anna, e gestiamo l'azienda a conduzione familiare. Siamo molto conosciuti per il perno un po' della nostra storia, perché risale a oltre 200 anni di tradizione nell'arte casearia proprio in Malga. Generazioni diverse di donne che fanno rete e che sanno tramandare saperi e mestiere, come Sonia Pancotto, imprenditrice agricola a Caneva. Oggi dentro l'azienda ci lavora anche mia figlia, che ha 22 anni, oltre a un'altra dipendente giovane di 24 e a un ragazzo di 20. Io mi occupo della produzione dei formaggi, però è un qualcosa che ho insegnato un po' anche ai ragazzi. Noi alleviamo anche animali da carne, che poi vengono utilizzati nell'agriturismo, e anche maiali per gli insaccati, per cui la nostra è un'azienda a 360 gradi. Azienda che da poco ha subito un grave incendio, ma che è già pronta a ripartire. Proprio il fatto di avere dei giovani nell'attività mi ha aiutato tanto, sia per darmi forza e coraggio, ma anche perché dico ho un futuro e quindi devo continuare a tirare in modo che loro possano poi lavorare da soli. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Inizia oggi a Udine il Forum Internazionale Terre di Confine, dalla guerra fredda ai conflitti del nostro tempo, promosso da Friuli Storia con gli Atenei di Udine e Harvard, e che fino a sabato coinvolgerà anche Gorizia con l'obiettivo di rileggere il ruolo chiave dei territori di confine. A introdurre la kermesse sarà alle 18 nel Salone del Parlamento di Udine lo storico e analista Mark Kramer, direttore del Centro Studi sulla Guerra Fredda di Harvard. Con un ciclo di incontri sul tema come si uccide la pace e le grandi crisi internazionali della contemporaneità, ritornano quest'anno, dopo lo stop per la pandemia, l'iniziativa di divulgazione Storia in Città, organizzata dal Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Trieste, in collaborazione con l'Istituto Regionale per la Storia della Resistenza. Il primo incontro, oggi alle 18 nella sede di Via Baciocchi, vedrà la presentazione del volume L'Ucraina e Putin tra storia e ideologia di Andrea Graziosi, dell'Università Federico II di Napoli. A dialogare con lui ci saranno Raul Pupo dell'Istituto Regionale per la Storia della Resistenza dell'Età Contemporanea e Patrick Carlsen, docente di Storia Contemporanea all'Università di Trieste. Pasqua, ponte del 25 aprile, elezioni con eventuale ballottaggio e in più la adunata degli alpini. In aprile gli studenti di Udine perderanno parecchi giorni di lezione. Un comitato di genitori ha lanciato una petizione per chiedere che almeno le votazioni non si tengano nelle aule scolastiche. Non solo, Pasqua e 25 aprile, scuole chiuse per ospitare seggi per le elezioni in diversi comuni della regione. A Sacile e a Udine il calendario potrebbe riservare un lunedì di ballottaggio. Nel capoluogo friulano allo studio c'è anche l'ipotesi di uno stop alle elezioni tra il venerdì e il sabato a ridosso della sfilata degli alpini. Genitori dei bambini costretti a ricorrere a giorni di ferie e permessi, più fortunati coloro che vivono in comuni più piccoli, dove è più semplice trovare alternative ai seggi elettorali nelle scuole. Paolo De Nardo, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Udine. siamo contrari, pensiamo che si debbano cercare e trovare altre soluzioni. Porto l'esempio virtuoso, avendo abitato per diversi anni a Spilimbergo, dove i seggi vengono allestiti nella palestra della scuola, ma questo significa che è l'attività in palestra che viene interrotta per alcuni giorni, non tutta l'attività scolastica. Un mese di aprile è quasi estivo, costringerà gli insegnanti a riprogrammare le attività didattiche e le verifiche per evitare ingorghi e recuperare il tempo perduto. Un disagio, secondo la sede udinese del movimento Priorità alla Scuola, che poteva essere evitato. A mio avviso, creando dei tavoli tecnici in cui le municipalità dialogano con altri soggetti e organizzazioni del territorio, sia possibile trovare delle sedi alternative, a partire dalle stesse sedi comunali, centri civici e altri spazi che sono presenti sul territorio. Lo si è fatto a Bergamo. Già dal 2020 il 60% dei seggi è stato trasferito tra comune, musei, centri per la terza età e in un ex lazzaretto. Difficile, ma non impossibile, ci dice l'assessore competente. A Udine il comune invierà delle proposte di attività extracurricolari alternative, visite ai musei, ludoteche, per recuperare quantomeno un martedì. A Pordenone, dove durante la pandemia si è votato in fiera, si sta cercando di coinvolgere le associazioni sportive per attività dedicate negli impianti in una delle giornate di scuola chiusa. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Si svolgerà questa mattina alle 11 nella sede USB di Trieste in via Ponziana un'assemblea pubblica in cui il sindacato presenterà il consuntivo della situazione degli alloggi ATER, caratterizzata, secondo USB, da un grave disagio abitativo con situazioni di inabilità certificata dall'azienda sanitaria, denunce e diffide a cui sistematicamente non viene dato riscontro, situazioni di subappalto delle amministrazioni stabili con rincari in affitto che prescindono dalle situazioni ISEE. L'allungamento dell'aspettativa di vita, unitamente al miglioramento del tempo, della sua qualità, è alla base dell'aumento delle malattie renali nel mondo. Si tratta di una vera e propria epidemia, il cui subdolo inizio, che passa spesso inosservato, può portare negli anni all'insufficienza renale terminale. Il 9 marzo è la giornata mondiale del rene, un appuntamento per sensibilizzare i cittadini sulle patologie che coinvolgono questi organi. Per saperne di più abbiamo sentito la dottoressa Alessandra Marega, dirigente del reparto di nefrologia, dialisi e trapianto renale all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. La FIR, la Fondazione Italiana del Rene, ha istituito dal 2006 questa giornata, che è un momento di riflessione sulle patologie renali. Perché? Perché ci sono ben 6 milioni di persone in Italia con malattia renale cronica e queste sono, diciamo, malattie silenziose, senza sintomi, e questo ritarda la diagnosi, che è fondamentale per evitare la progressiva perdita di funzione renale, che poi porta a sua volta alla necessità di un trattamento sostitutivo con il trapianto renale o la dialisi. Che cosa fare quindi per la diagnostica? Ci sono semplici strumenti come controllare la pressione arteriosa, la glicemia, un esame urine, una creatininemia. Con questi dati noi possiamo diagnosticare precocemente le malattie renali e poi essere inviati dal medico di medicina generale a una visita nefrologica. Quindi, per proteggere la salute dei reni, invece, quali sono i consigli da seguire? È utile eseguire un'attività fisica regolare, seguire una dieta equilibrata, non fumare, un regolare apporto di liquidi giornaliero e anche non assumere farmaci se non su indicazione del medico. In particolare ci si riferisce agli antinfiammatori, di cui spesso anche si abusa in maniera inconsapevole. Come avvicinarsi appunto a capire il ruolo del nefrologo e perché è importante? Una persona su due in realtà non sa chi è il nefrologo e chi dice di conoscerlo pensa e lo confonde con l'urologo. Il nefrologo è lo specialista che si occupa di tutte le malattie renali e che con la diagnosi precoce cerca di rallentare e bloccare la progressione dell'insufficienza renale, che poi porterà appunto al trattamento sostitutivo, e si tratta di trapianto renale o la dialisi. E proprio in occasione della giornata del rene, la struttura complessa di nefrologia e dialisi dell'area isontina attiverà un ambulatorio pomeridiano presso il reparto di nefrologia e dialisi a Gorizia e uno a Monfalcone dalle 14.30 alle 18.30. L'ambulatorio sarà dedicato all'informazione sulla prevenzione, sulla diagnosi e sulla terapia delle malattie renali. Negli ospedali di Monfalcone, Gorizia, Fiume Veneto e Al Maggiore di Trieste sono previste attività informative e la rilevazione di pressione arteriosa e stick urinari. Vaccini e anticorpi monoclonali per la SARS-CoV-2 è il titolo del seminario che il professor Rino Rappuoli, direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena, terrà oggi alle 18 all'auditorium del Museo Revoltella di Trieste. Riqualificare e reincludere un lavoratore con disabilità, anche se è un'opportunità ancora per pochi, lo testimonia la storia di Giovanni, un disabile visivo che dopo aver perso la vista, grazie al suo grande impegno personale, al supporto di due storiche realtà udinesi impegnate nel mondo dei disabili e della sua azienda, ha potuto tornare a lavorare. Giovanni ha perso la vista a 52 anni, all'inizio un'esperienza dura, poi si è rimesso in gioco e ha cominciato a costruire la sua seconda vita. Grazie alla tecnologia, che oggi fa miracoli, ha intrapreso un percorso di riqualificazione professionale che gli ha permesso di riprendere il lavoro da addetto alla grande distribuzione con nuove mansioni. Per lui, che oggi di anni ne ha 55, un mutamento che ha avuto bisogno di grande impegno personale e resilienza, ma anche di un ambiente inclusivo, competente e motivante come l'ANFAMIV e la comunità Pier Giorgio Onlus, storiche realtà udinesi che con i loro professionisti volontari da anni accompagnano persone come Giovanni. Per me significa comunque sentirmi una persona normale, sentirsi ancora utile e poter continuare a lavorare. Faccio un piccolo passo alla volta. Penso che i traguardi che si raggiungono sono uguali all'impegno che uno ci mette. È uno degli oltre 1000 che lo scorso anno hanno chiesto aiuto all'ufficio H della comunità Pier Giorgio, unico presidio in regione che offre alle persone con disabilità consulenza per ausili su misura per la quotidianità e il lavoro. Mauro Costantini, non vedente, è il consulente che ha condiviso il suo percorso di rinascita, nel quale determinante e per nulla scontato, ci dice, è stato l'appoggio dell'azienda. L'azienda non l'ha mai abbandonato, però io vorrei sottolineare che si tratta di un'eccezione, non è la regola. In questo caso c'è qualcuno che ha avuto l'intuizione di capire che Giovanni comunque rappresentava un patrimonio di conoscenze e di competenze. Le difficoltà finanziarie del passato sono una sfida ancora aperta intanto per la Onlus, che tra le sue due sedi di Udine e della Carnia con circa 80 addetti sta supportando oltre un'ottantina di disabili residenziali e diurni, oltre ai molti che accedono agli altri servizi. Il presidente Aldo Galante: anche i conti stanno ripartendo bene grazie anche al rapporto con le istituzioni e effettivamente stiamo facendo girare l'organizzazione con l'obiettivo di fornire servizi sempre più qualitativamente validi per le persone disabili. Udine, Lara Bocalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Prende il via oggi nella piscina olimpica di Lignano Sabbiadoro la seconda tappa delle World Series di nuoto paralimpico 2023, circuito che vede coinvolti complessivamente 8 paesi. La tappa di Lignano sarà valida per le qualificazioni ai mondiali di Manchester 2023 e alla Paralimpiadi del 2024. Saranno presenti 50 atleti primi nel ranking internazionale e tutti gli atleti italiani che hanno partecipato alle Paralimpiadi di Tokyo 2021. In contemporanea alle World Series si svolgeranno i campionati assoluti italiani in invernali. Complessivamente in vasca ci saranno più di 400 atleti, di cui 65 italiani. E sempre oggi a Sella Nevea inizia anche la settimana della finale di Coppa del Mondo di sci paralimpico, che la località friulana organizza assieme a Cortina d'Ampezzo. Sulla pista del Canin si disputeranno due discese libere, oggi e domani, e un super gigante domenica 12 marzo. Una mostra che esplora l'eredità culturale che il rapporto tra la pittrice Dora Bassi e Pierpaolo Pasolini hanno lasciato sul territorio friulano. È quella che verrà inaugurata oggi a Gradisca di Sonzo con il titolo Pierpaolo Pasolini e Dora Bassi, eredità ai contemporanei. All'inaugurazione alle 18 interverrà la giornalista Jennifer Guerra, protagonista di un incontro in cui svelerà alcune anticipazioni del suo nuovo volume dedicato al rapporto che Pasolini ebbe con il femminismo. Ognuno di noi ha tre vite, una pubblica, una privata e una segreta. È ciò che mette in luce in modo affilato e brillante uno fra gli spettacoli più attesi dell'anno, Perfetti Sconosciuti, tratto dal film di enorme successo di Paolo Genovese, che cura anche la regia per il teatro. La commedia proda stasera al Politeama Rossetti di Trieste, dove andrà in scena alle 20.30 e resterà in replica fino a domenica. Strepitosi imitatori capaci di trasformare le canzoni più note in versioni inaspettate e irresistibili sono i gemelli di Guidonia, che arrivano con lo spettacolo 3x2 tra radio e TV a oggi al Teatro Bobbio di Trieste. Inizio dello spettacolo alle 20:30, repliche fino a domenica. Sulla giornata internazionale delle donne, la foto di apertura del Piccolo di Trieste sul protocollo che coinvolge nella prevenzione i locali pubblici. Leggiamo il titolo di apertura vero e proprio. Il polo del freddo all'ex Italcementi, 150 nuovi assunti, dalle carni ai salumi, dai surgelati ai formaggi, via al cantiere da 40 milioni su 25.000 metri quadri. Il giornale incontra Cesare Lanati, titolare della Bell Group, società attiva nel settore immobiliare, che ha acquisito l'area ex Italcementi all'imbocco del canale navigabile. I richiami di spalla della prima pagina del giornale. Sull'opposizione della famiglia di Liliana Resinovic all'archiviazione del caso, sulla raccolta di firme a favore della cabinovia, sul rincaro della pallina di gelato e sul ritorno della normale circolazione stradale nel quartiere di Roiano. In economia il giornale intervista l'amministratore delegato di Fincantieri, Folgero. Ponte sullo stretto, siamo pronti, ma non saremo i registi dell'opera. Siamo famosi nel mondo, ma per le navi. La prima pagina del fascicolo su Trieste. In alto, presidi antiviolenza, la rete dei 28 locali a difesa delle donne. E in basso, accoltella la ex e fugge. La vittima è in ospedale e caccia all'aggressore. È la notizia di cui abbiamo detto all'inizio del giornale radio, riferendovi anche che l'aggressore si è costituito nella notte in questura. Apre con la sanità il Messaggero Veneto, edizione di Udine. Decine di medicinali sono ancora introvabili per difficoltà nelle forniture, scarseggiano antinfiammatori e anche qualche salvavita. Al centro pagina una fotonotizia sui nuovi divieti sul fumo in arrivo. Gli udinesi alla stretta, è esagerato, così smetto. Di fianco la cronaca, calci e testate contro gli agenti della Polfer, due arrestati su un treno a Tarvisio. Due richiami sono poi dedicati ai funerali di Remo Cacitti, lo studioso riposerà nella sua Venzone, e alla morte di Mauro Zamparutti, era il promotore della cronoscalata a Castelmonte. Anche l'apertura delle pagine della cronaca cittadina è sui possibili nuovi provvedimenti antifumo, divieti anche all'aperto, fumatori e rivenditori bocciano la proposta. Il titolo del dorso di Udine del Gazzettino è invece sull'economia, imprenditoria mancano i giovani, in regione mancano ricambio e continuità generazionale, le statistiche confermano un trend che non conosce freno. A centropagina una notizia sullo stadio Friuli, pronto ad arrivare a 30.000 posti. In basso infine lo sport, con il doppio ex coda che spiega Empoli Udinese e Cusin dell'APU Basket che dice è la vittoria dell'unità. Dai quotidiani nazionali, Repubblica di oggi riporta a pagina 16 l'appello di Paola Defendi, la madre di Giulio Regeni, alla presidente del Consiglio Meloni. Visto che non sarà in aula al processo, sveli a me che cosa le ha detto Al-Sisi. E passiamo all'edizione di Gorizia e Monfalcone del Piccolo. Foto orizzontale in alto, un gruppo di donne in posa con le mimose, sotto il titolo Premiate le capitane d'impresa. Andiamo subito all'interno per vedere di cosa si tratta. Dall'orologiaia alla tassista, il lavoro a Monfalcone parla anche al femminile, sul riconoscimento conferito dal Comune a 14 imprenditrici locali, protagoniste in aziende che contribuiscono all'economia cittadina. Torniamo alla prima pagina, il titolo grande, un progetto pilota per le perdite dell'acquedotto a Irisacqua, 12 milioni e mezzo per sistemare la rete idrica, benefici per Monfalcone, Grado, Cormons e Gradisca, è l'apertura delle pagine sul capoluogo, a caccia di perdite idriche col radar, dal PNRR fondi a Irisacqua, progetti pilota Cormons e Grado, 6 milioni destinati a Monfalcone, 2 e mezzo al depuratore di Gradisca. Il parcheggio, un covo di teppisti, è il titolo di apertura del dorso di Pordenone del Gazzettino. I residenti mettono nel mirino un gruppo di ragazzi che stazionano nel park di un supermercato in via Garibaldi. A centropagina anche qui il fumo, oncologi in allarme, dito puntato contro le nuove sigarette. Le svape elettroniche e i gusti di frutta spopolano tra i minorenni. Sempre a centropagina una vignetta dedicata alla città raccontata dal web, viabilità, stranezze e risate. In taglio basso tre richiami allo sport, il calcio con il tifo del Pordenone che promuove l'allenatore Stefani, l'hockey su pista, Cortes è il nuovo bomber dell'Italian Baia e il ciclismo, l'argentino Duque conquista un posto di riguardo in casa Caneva. Sull'edizione pordenonese del Messaggero Veneto rimangono il titolo sui medicinali e la fotonotizia sui divieti antifumo, mentre cambiano i richiami. Uno è dedicato alla cronaca, il papà di Michele morto nell'incidente in Veneto, io perdono ma voglio sapere la verità. Un altro richiamo sui lavori pubblici, la nuova piazza di Fontana Fredda, un progetto da 5.700.000 euro. Nelle pagine economiche un articolo è dedicato ai conti di Bofrost. Corre il fatturato dell'azienda di San Vito al Tagliamento, l'amministratore delegato, nei piani il rinnovo delle filiali nel segno della sostenibilità. La progettazione e l'allestimento della mostra dedicata alle sculture del Museo Revoltella di Trieste in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dalla sua fondazione e il catalogo scientifico della raccolta saranno presentati oggi in una conferenza di Susanna Gregorat, funzionario direttivo conservatore del museo, organizzato dalla Società di Minerva alle 16.45 alla Biblioteca Statale di Trieste. Alcuni altri appuntamenti. Il volume Storia della letteratura dalmata italiana, curato da Giorgio Baroni, sarà presentato oggi a Trieste alle 17.30 al Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata. Sempre alle 17.30 a Trieste, a Palazzo Gopcevic, sarà presentato, anche alla presenza dell'autore, il libro del fotografo Italo Zannier, Palcoda, un ritratto della montagna che della neve subisce solo le avversità e che è rimasta fuori dal circuito turistico. Ancora a Trieste, alle 18 al Caffè San Marco, presentazione del libro Malvasia, un diario mediterraneo, con l'autore Paolo Tegoni e il fotografo Francesco Zoppi. Quinto appuntamento oggi pomeriggio della stagione del Teatro Stabile Friulano, di scena La Fattoria degli Uccelli, utopia tratta da Aristofane, spettacolo in lingua slovena sovratitolato in friulano, alle 20.45 al Teatro San Giorgio di Udine. Ritorna questa sera in regione Stanno sparando sulla nostra canzone, il nuovo spettacolo con Veronica Pivetti, in scena alle 20.45 al Teatro Monsignor Lavaroni di Artegna nell'ambito del circuito ERT. E sempre per il circuito ERT, una delle più apprezzate compagnie di danza italiana, la RBR Dance Company, porta in scena lo spettacolo Canova Svelato, gli illusionisti della danza, al Comunale di Monfalcone alle 20.45. E adesso qualche cenno sulla programmazione radiofonica odierna. Attorno alle 11.10 la rubrica In Friulano parlerà delle colonie feline. E poi ad Anziani, anzi no, si parlerà di come relazionarci con persone che manifestano demenza. Alle 11.55 Né Stato né Mercato presenta la mostra itinerante Parte da Dentro, su un progetto di un gruppo di detenuti in regime di massima sicurezza nella casa circondariale di Tolmezzo, che da venerdì approda all'Istituto De Ganutti di Udine. Sono le 7.54 minuti e 32 secondi, l'assistenza tecnica è stata garantita da Carlo Morelli e da Riccardo Ostojic, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Per il momento ci fermiamo qui. I prossimi appuntamenti con la nostra informazione, pochi minuti dopo le 11, su questa frequenza c'è il flash e poi all'edizione delle 12.30. Grazie della cortese attenzione da Daniele Lettig e da Antonio Cajazza. Buona giornata e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.